Buonasera a tutti da Pietro Pancamo e benvenuti a The Big World of Poetry and Fiction. Qualche giorno fa ho incontrato nella sua tenuta di campagna il poeta e professore di Milano Tommaso Meldolesi. Ciò che mi ha detto potrete ascoltarlo anche voi fra poco, subito dopo lo stacchetto musicale che sta per iniziare. Mi chiamo Tommaso Meldolesi e sono nato a Milano nel 1965. Mi sono sempre posto l'obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura a chi si sta ancora formando, come a chi in questo paese e in quest'epoca disgraziata trova ancora il piacere di leggere, di osservare e di scoprire il mondo multiforme che ruota intorno a sé. Ho trascorso molti anni in Francia, a Poitiers, a Lione, a Parigi, a Limoges, poi ancora a Parigi. Prima come studente, in contatto con culture e studenti provenienti da tutto il mondo, poi come lettore di italiano al liceo e all'università. Poi ancora come studente, una volta conseguita la laurea in lingua e letteratura francese all'Università Statale di Milano, mi sono specializzato in letteratura comparata a Parigi, dove ho conseguito un dottorato nel 2001. Ma nel frattempo ero tornato in Italia, dove dopo lunghi anni di attesa si erano aperti i concorsi per l'insegnamento della scuola pubblica. Grazie ai miei studi e soprattutto grazie al periodo trascorso in Francia, nel 2000 ho vinto il concorso e ho avuto un posto come insegnante di lingua e cultura francese nella scuola secondaria di secondo grado. Ho cominciato a scrivere di critica letteraria e, oltre a diversi articoli tra il 2010 e il 2012, ho pubblicato in Francia due monografie su letteratura e ferrovia. Dopo 10 anni di insegnamento sono tornato per 3 anni a Parigi, dove ho ottenuto un secondo dottorato in letteratura francese. Ho studiato l'opera di Benjamin Gatineau, uno scrittore poco conosciuto del XIX secolo, con idee socialiste, rivoluzionarie e anarchiche, nostalgico dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Su cui sto scrivendo un altro libro. Il mio rapporto con la scrittura di, tra virgolette, cose mie è sempre stato complesso. Diversamente dai lavori di critica che ho sempre inviato e fatto circolare, con i miei racconti e con le mie poesie ho un rapporto molto più intimo e riservato. I racconti, infatti, dopo qualche magro tentativo di spedizione, giacciono ancora come l'unica pièce teatrale che ho scritto diversi anni fa e diversi inizi di romanzi nel fondo di vecchi cassetti, nei meandri di un computer o peggio, sotto pile accatastate di fogli di cartacce inutili. Le poesie, invece, perlomeno alcune, hanno avuto un destino diverso. Nel 2010, dopo varie titubanze, mi sono deciso a spedirne alcune alle riviste Il Monte Analogo e L'Abile Traccia. Scrivo poesie dall'adolescenza, ma solo l'anno scorso mi sono deciso a spedirle, scegliendo quelle che più mi rappresentavano, a una casa editrice e quindi a pubblicarle. I temi principali di queste poesie sono il gusto per il viaggio e per la scoperta, scoperta di sé e dell'altro, di un mondo aperto e ricco di nuove conoscenze, dove riflessioni su me stesso, ma anche su paesaggi e storie di uomini e donne coraggiosi, anche se spesso al margine della società, vengono contemplate dallo sguardo curioso di un viaggiatore intrepido senza fissa dimora. Thank you. Ed ora ecco a voi alcune poesie davvero suggestive di Tommaso Meldolesi. Si tratta di componimenti ripresi da Senza fissa dimora, una raccolta che lo stesso Meldolesi ha pubblicato nel 2017 con Campanotto Editore. Sicilia, luce d'austere vedute nell'orizzonte opaco di inveterate brezze, lacrime riarse di terra insozzata, lembi nascosti, singulti repressi, vagiti di gioie e speranze uccise dall'albore d'un'esistenza errata. Sicilia non più vergine, beltà dilaniata dal vile condottiero che è in te, fuori da te, nelle tue viscere, nei tuoi fermenti infranti, nei tuoi tormenti dell'anima impotente, nella tua incapacità di giocarti fino in fondo, fuori da te, una partita che ti vedrebbe vincente. Sicilia bella, Sicilia meravigliosa, dal profumo di zagara e di gelsomino, Sicilia delle lumie e del mandorlo in fiore, Sicilia rauca del marranzano antico che arranca sotto il giogo della normalità ai sentieri imposti della modernità, Sicilia dei vicoli impervi e scoscesi, terra angusta dalle fauci vulcaniche, gravide di speranze e amare delusioni, Sicilia di leggende e tradizioni antiche. Tornato alle tue braccia da involontario esilio, ritrovo il tuo calore di vedova in attesa, raccolgo in te le ceneri d'un destino irrisolto. L'ultimo raggio di sole, la sera di Pasqua a San Biagio. Incline, tra le nubi al tramonto, ormai stanco, riflette sui vetri sudati, incastonati nella pietra antica, la poca luce sgargiante, e più in là giù, verso valle, si staglia e si distende sul tetto arcuato della vecchia canonica, sulla cupola grande, sul campanile aguzzo, da cui sodono ininterrotte le campane a festa. E fin laggiù, lontano, ad innaffiar di luce i grappoli di casine antiche di pietra dura sul limitar del paese. Poi diventa tutt'uno con il sole arrossato e pare che gli uccelli gli cinguettino intorno, danzando tra le file alte dei cipressi, lontane all'orizzonte. Luna piena a Monte Rosso, riflessi di luna piena sulle onde tranquille nel silenzio d'estate a Monte Rosso, come baci odorosi lanciati nel vuoto, messaggi rilucenti ininterrotti sul mare. L'Aquila, 6 aprile 2009. Si squarciano le strade e urla la montagna. La terra sotto i piedi ha iniziato a tremare. Improvviso nel buio, un boato e poi il nulla. Si sgretolano case, frantumano certezze e annaspano nella notte le ombre dei sopravvissuti, desiderose di vita, bisognose d'aiuto. e aspettano l'alba nel freddo. Qualcuno ha iniziato a gridare. Qua o là un'altra casa è crollata. La terra continua a tremare. Versi per Alda Merini. Te ne sei andata, proserpina lieve, con passo felpato per sentieri nascosti, e hai lasciato per sempre, pigiati in un cassetto, sopra fogli in disordine, i tuoi sogni più belli, le immagini sofferte, il dolore, la gioia, i sentimenti intensi di una vita vissuta, amata, appassionata, e un pizzico di follia buona che un po' ci hai regalato. Pensiero per Yara. Sei stato falciato, uccellino indifeso, dal vile cacciatore in cerca di altre prede. Ti ha lasciata da sola, odoroso, innocente, petalo calpestato, congelato nel campo. E di colpo i tuoi sogni di bambina curiosa, desiderosa di vita, carica di emozioni, sono volati via, trascinati dal vento. Pensieri indecifrabili, frantumati per sempre. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.